E allora buonasera a tutte e a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Entropia Massima con Emergenza Zero. Questa sera parleremo di miniere, di cave, di estrazione di minerali, rocce, eccetera, e dei rischi a questi connessi. In particolare prendiamo spunto da una legge che è stata approvata circa un anno fa in El Salvador, un paese a noi molto caro per vari motivi, e da quella ci sposteremo in Italia per parlare di due casi molto interessanti dell'area di Carrara con l'estrazione del marmo e le cave di Carrara e della Val di Stava, dove circa 30 anni fa è avvenuto un disastro di cause principalmente antropiche, una catastrofe appunto nel 1985, poco conosciuta, e cercheremo di parlarne. E intanto partiamo con l'introduzione legata a quanto successo nel Salvador appunto un anno fa, con l'approvazione di una legge contro lo sfruttamento delle risorse naturali minerali. A tutte e a tutti, appunto, introduciamo questo tema parlando della situazione nel Salvador, cioè come si è arrivati appunto un anno fa, il 28 di marzo del 1917, ad approvare questa legge che ha proibito l'estrazione di metalli, l'estrazione metallifera dal territorio del Salvador. Si è arrivati appunto a questa risoluzione dopo anni di lotta in cui ovviamente gran parte della popolazione si è vista contrapposta a grandi multinazionali, soprattutto in El Salvador sono multinazionali canadesi che come in gran parte dell'America Latina sfruttano il territorio in cambio di veramente poco, promettendo sempre posti di lavoro, promettendo cure mediche, promettendo un modo di vivere migliore, alternativo rispetto alla vita contadina delle popolazioni locali, e quello che poi invece risulta sempre è un disastri ambientali, impatti sul territorio estesissimi e sulle acque potabili, soprattutto sull'ambiente in generale. In particolare, appunto, nel Salvador sono due, contando che il territorio del Salvador è praticamente poco più della regione Lazio, sono due grandi zone sottoposte ad estrazione mineraria, soprattutto di oro e argento, soprattutto oro, che diciamo dal punto di vista geologico si trova nelle fasi finali dell'attività vulcanica, nei fluidi tardo vulcanici di attività finale vulcanica, e quindi si trova in concentrazioni in vene appunto residuali di precipitazione chimica. E per estrarlo, uno dei problemi più rilevanti è il fatto che l'estrazione avviene principalmente in miniere a cielo aperto, e già questo vuol dire che gran parte delle rocce sono esposte agli agenti atmosferici, che quindi mettono in circolo comunque materiali che normalmente non sarebbero in così grande quantità disponibili. E in più, nel processo di estrazione dell'oro, in particolare anche dell'argento, vengono usati elementi e composti che poi sono altamente nocivi per l'ambiente. Ad esempio, per l'estrazione dell'oro viene usato il cianuro, cioè per l'estrazione di una tonnellata, da una tonnellata di terra, di roccia e scavata, si riescono ad estrarre 10 grammi d'oro, e per estrarre questi 10 grammi d'oro vengono impiegati 200 grammi di cianuro in soluzione, cioè le rocce che vengono scavate vengono poi trattate con queste soluzioni al cianuro, in modo da separare, si dice, è un processo che si chiama lisciviazione, che separa appunto l'oro, e poi viene fatto precipitare per elettrolisi, con appunto l'oro viene diciamo si accumula sull'anodo nel processo dell'elettrolisi e quindi viene poi raccolto. Quindi da un trattamento di 10 tonnellate di una tonnellata di roccia si ottengono appunto 10 grammi d'oro. E ovviamente in il trattamento delle acque di risulta della miniera dovrebbe poi essere un processo molto, molto attento e accurato, con il recupero del cianuro per l'oro. Per ad esempio invece per l'argento viene usato l'arsenico, che anche questo è ovviamente un elemento dannoso per la salute e per l'ambiente. E il problema è che in nazioni con in paesi con uno scarso controllo dell'ambiente dal punto di vista del controllo proprio del territorio, molto facilmente le grandi multinazionali, per risparmiare, tendono a non investire nel recupero ambientale. Loro vengono, sfruttano, se ne vanno, quello che resta nel paese. Quindi questi fluidi non vengono trattati a sufficienza, non vengono, spesso non vengono proprio trattati e vengono riversati nell'ambiente. Questo ha fatto sì nel territorio, appunto nella miniera di San Sebastian, in particolare in El Salvador, che si è arrivati al punto che lo Stato ha proibito alla popolazione locale, agli abitanti, proprio di poter usufruire dell'acqua del fiume, la loro principale fonte idrica. Non possono prendere l'acqua del fiume per bere. E questo comporta ovviamente che per bere, cioè l'acqua potabile, la devono recuperare da acqua piovana e comprarla. E hanno fatto una stima, uno studio di un'università danese ha fatto una stima che circa il 20% di un salario di un operaio, di un minatore impiegato in queste miniere, viene speso per l'acquisto di acqua. E questo, diciamo, che è una, mentre nella normalità in El Salvador viene speso circa l'1% del salario, e già questo è proprio un dato, diciamo, eclatante di quello che è il risultato di questo tipo di politica. Ora, El Salvador è stata la nazione che per prima al mondo ha promulgato questa legge di divieto di estrazione di metalli nel proprio territorio. Una legge veramente scarna, sono 5 pagine di articoli, sono 10 articoli molto, molto semplici, molto chiari, nel senso si proibisce l'estrazione mineraria per proteggere l'ambiente, per proteggere l'acqua, non si può, le attività in corso si devono fermare. Viene data una proroga per i piccoli, per l'estrazione mineraria a livello artigianale. Questo perché una proroga di 2 anni. Questo perché ovviamente in un territorio in cui comunque l'estrazione può essere, è considerata uno delle basi del sostentamento, può essere può creare dei conflitti sociali. E in effetti il punto in cui siamo adesso, diciamo, leggendo, cercando in rete delle diciamo descrizioni di qual è la situazione attuale, si trova molto poco in realtà. Le grandi industrie effettivamente hanno fermato la produzione, ma stanno succedendo 2 cose fondamentali. Il problema più grande è quello del ripristino ambientale, perché appunto le società se ne sono andate, hanno lasciato tutto così com'era, semplicemente, e questa cosa però nella legge promulgata non è descritta chiaramente qual è dove devono essere trovate le risorse per la bonifica di questi siti. E c'è un altro grande problema, appunto, che è questo degli artigiani, cioè dell'estrazione a livello artigianale, tanto che si stanno creando delle correnti che stanno cercando di rimodificare la legge in modo non essere così categorica, ma di poter permettere ai piccoli estrattori di continuare, cosa che in realtà è molto osteggiata a vari livelli nella società civile poi salvadoregna, perché comunque anche a livello artigianale vengono lo stesso applicate queste metodologie, la lisciviazione col cianuro, con controlli ancora più scarsi. Quindi in realtà diciamo che su questo tema in El Salvador è attualmente molto molto calda la situazione, in più poi ci si mette anche il fatto che le grandi società, le multinazionali, stanno cercando di rientrare in contatto con i piccoli paesini, con i vari sindaci, cercando di convincerli a contraddire la legge. Quindi si sta creando veramente una forte tensione sociale su questo tema. Ora io direi che magari poi ne riparleremo. Sì. Solo una cosa brevemente, ed è una domanda che pongo a te, anche perché ne parlavamo prima. Rispetto a che cosa è successo ai lavoratori che lavoravano, alle persone che lavoravano nelle miniere, visto che appunto sono delle vie, che quindi evidentemente potrebbe essere un altro problema sociale, soprattutto se non c'è stata, diciamo, un'idea e un progetto, chiamiamolo, di transizione, no? No, assolutamente. Diciamo, nella legge c'è l'articolo che dice sarà a carico del Dipartimento dell'Economia trattare la riconversione dei lavoratori dal Dipartimento Minerario, diciamo, dall'estrazione mineraria alla riconversione in uno sviluppo sostenibile. E si parla sempre dei temi sempre a noi cari, ma anche di difficile realizzazione a breve termine, cioè la riconversione del territorio su agricoltura, agricoltura sostenibile, turismo sostenibile. E naturalmente tutto ciò, contando che si sta in un ambiente appunto mi viene disastrato dall'impatto ambientale della miniera, non è una transizione facile. Nel senso, è come se effettivamente con questa legge è stato dato un freno al problema, è stato dato un blocco al problema, ma è capace che per la risoluzione del problema sarà vita. Diceva in una parte di questo seminario che consiglio di vedere su Facebook, sulla pagina Facebook del CRIPDES, che è un'associazione che segue queste tematiche, dicevano appunto la bonifica di questi siti può costare, c'è tutta una valutazione dei costi e benefici, è una cosa che può costare alle imprese straniere che hanno portato avanti l'escavazione una cosa come $50,000 l'anno, ma senza termine, cioè è un livello di inquinamento talmente elevato che può essere veramente di difficilissima gestione. Quindi anche la riconversione dei lavoratori sarà una cosa lunga e difficile anche, e sicuramente crea grandi tensioni sociali a vari livelli. Certo. Assolutamente. Direi che possiamo fare la prima pausa e poi avremo ben due interventi dall'esterno, quindi pausa musicale e a tra poco. We'll be right back. Allora, eccoci di nuovo in voce, dovrebbe essere con noi anche Graziano Lucchi dell'associazione Val di Stava 1985. Ci senti, Graziano? Sì, buonasera a voi tutti e agli ascoltatori. Grazie, allora buonasera. E intanto, molto brevemente, perché ti abbiamo chiesto di intervenire? Perché abbiamo iniziato appunto parlando di quanto è avvenuto, quanto sta avvenendo molto lontano da noi in America Latina, nel Salvador. E adesso invece vediamo cosa è successo poco più di 30 anni fa, quindi neanche tanto lontano nel tempo, in Trentino, in provincia di Trento, nella Val di Stava, ed è un evento non così conosciuto probabilmente, anche parlando con amici, con altri, di quanto è successo in Val di Stava, pochi lo sapevano. In realtà è stata una catastrofe enorme, di grandi proporzioni, quindi presentati, chi sei, sì. Cosa fai e cosa è successo? Mi dispiace sentire che il più grave disastro minerario mai avvenuto in Italia, uno dei più gravi disastri minerari avvenuti al mondo, non sia molto conosciuto e non lo sia in Italia. Sì, lo dicevo come in senso negativo, ovviamente. Non... Prego? Lo dicevo ovviamente in senso negativo. No, no, no, io ne sono perfettamente cosciente. Il problema è duplice. Da un lato siamo portati a dimenticare, no? I ricordi brutti è meglio non tirarli qua ogni tanto, e dall'altro lato è un po' difficile spiegare cosa è successo il 19 luglio 1985 in Val di Stava. Se io vi ricordo il Vajont, voi tutti sapete che c'è stata una frana che è scesa nel bacino idroelettrico e che un'ondata si è portata via Longarone e altri paesi. Per parlarvi di Stava vi devo dire che è crollata una discarica di miniera. Prima cosa, una discarica di miniera costituita da due bacini di decantazione. E qui cominciano i problemi. Cos'è un bacino di decantazione? Un bacino di decantazione è una discarica di miniera. Dobbiamo andare a monte nella produzione. La roccia che si estrae dalla miniera viene lavorata, trattata, viene frantumata, macinata finissimamente. A questa polvere di roccia macinata si aggiungono acqua e prodotti chimici, reagenti, si separa il minerale utile. Sentivo prima che parlavate dell'oro, 10 grammi sono tanti, io conosco situazioni dove si estraggono anche 5 grammi per tonnellata di oro. Nella fluorite fortunatamente il rapporto è diverso, si estraevano a Prestavel 400 kg su tonnellata di roccia estratta in miniera, il che vuol dire che i 600 kg rimanenti più circa 10 metri cubi d'acqua che sono serviti per creare questa torbida dalla quale veniva poi separata la fluorite e viene tuttora nelle miniere che sono in azione, viene portata in discarica nel cosiddetto bacino di decantazione. Lo dice il nome, è un luogo dove questo fango, questa roccia finissima mista ad acqua deve decantare, deve asciugarsi praticamente, e lì deve rimanere per sempre in situazione sicura. Succede normalmente, ci sono bacini di decantazione, immaginate quelli delle miniere d'oro, no? Io ho visto alcuni di questi bacini di decantazione di miniere d'oro in Sudafrica, contengono decine, se non centinaia, se non migliaia di metri cubi di roccia finemente macinata, ma sono perfettamente asciutti e decantati. Cos'è successo a Stava? A Stava, la Montecatini, parliamo del 1960-61, era allora Montecatini il colosso, no, della chimica in Italia, divenne poi Montedison e successivamente Enimont, ha deciso di produrre questa fluorite utile al 98% circa, che serviva per l'industria chimica, per la plastica in particolare, e quindi ha costruito un impianto di trattamento del minerale e ha costruito una discarica. Ha scelto il luogo peggiore dal punto di vista idrogeologico per costruire la discarica, per impostare la discarica, ha scelto un acquitrinio, la cosiddetta, noi la chiamiamo la conca di pozzole, ma lo dice il nome, no? Sono delle pozze, sono delle pozzanghere, c'è acqua nel terreno, non ci puoi depositare sopra dei fanghi che devono asciugarsi, l'acqua di falda. A volte bisogna fidarsi del nome che viene dato in una situazione fluida. E un bel giorno, 25 anni dopo circa, questi due bacini di decantazione sono crollati. Si è scatenata una colata di fango che è scesa lungo il pendio a circa 90 km all'ora, ha spazzato via l'intero abitato di Stava, ha distrutto gran parte dell'abitato di Tesero. Sono morti in quel giorno 98 uomini, 120 donne, 31 ragazzi, 29 bambini, che sono sepolti in 64 diversi cimiteri d'Italia. Questo per dirvi cosa è successo il 19 luglio 1985. Non è semplice, mi dispiace, ma bisogna spiegare che cos'è un bacino di decantazione per sapere che può il crollo di un bacino di decantazione sprigionare una colata di fango che nulla può arrestare. Sei stato chiarissimo, sembri quasi un geologo, anzi. Ma sono anni che mi occupo di questa cosa, me ne occupo per il destino che mi ha portato a dovermene occupare. Sono stato per 20 anni presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime e poi ho dato vita alla Fondazione Stava 1985, che si impegna proprio per diffondere conoscenza, per far sapere non tanto quello che è successo a Stava, ma soprattutto perché non sarebbe dovuto succedere, perché sarebbe, se fosse stato costruito nel luogo giusto e in modo appropriato, certamente il bacino di decantazione non sarebbe crollato. E qui quindi veniamo un po' al motivo anche per cui ti abbiamo chiamato e qui parliamo di questo, di quanto successo. Non è un evento naturale, di solito noi parliamo di eventi naturali, di alluvioni, di esondazioni. C'è in questo caso, in cui spesso c'è la mano dell'uomo, qui non è solo la mano dell'uomo, qui è quasi esclusivamente, ma certo, anzi è esclusivamente colpa dell'uomo. È crollata un'opera, un'opera costruita dall'uomo, certamente. Ecco, è un disastro industriale. Ecco, in questo anche, ciao Graziano, ciao. Quello a cui accennavamo quando ci siamo sentiti, un po' una valutazione dei costi, questo è un filo rosso che noi ci portiamo dietro in tutte le trasmissioni, diciamo l'attenzione appunto alla prevenzione a genere su eventi naturali, ma a maggior ragione su eventi su costruzione, opere antropiche, i costi della prevenzione rispetto ai costi poi del ripristino quello che noi definiamo la lezione di Stava dovrebbe proprio portare a far riflettere su questo aspetto. Noi possiamo dimostrare, ma è scritto nella sentenza del procedimento penale, la vicenda di Stava si è chiusa con una sentenza della Corte di Cassazione nel 1992 che ha confermato la condanna di 10 imputati per i reati di disastro colposo e omicidio colposo plurimo. In questa sentenza si dice che praticamente se si fosse speso 100 si sarebbe risparmiato 100.000. In pratica il costo, che è stato liquidato poi nel corso di una transazione nel 2004, 19 anni dopo il disastro, è stato complessivamente di 133 milioni di euro che sono stati pagati dai responsabili civili, e cioè da Edison per Monte Edison, da Eni per Solmine, da Finimeg per Fluormine e dalla provincia autonoma di Trento, condannata anch'essa in quanto non avevano svolto i suoi funzionari i controlli ai quali erano obbligati per legge. 133 milioni di euro con poco più di 100 milioni dell'epoca, la cosa si sarebbe potuta evitare. Certo, è una filosofia aziendale, è la filosofia del profitto immediato, del profitto che si ottiene minimizzando i costi. La discarica è un costo e quindi nei 25 anni in cui questa discarica è stata operativa l'azienda ha minimizzato il costo della gestione del rifiuto, con il risultato poi di dover pagare delle cifre immensamente maggiori. Ma su questo noi abbiamo l'esperienza del Sudafrica, dove impariamo molte cose. Dal Sudafrica abbiamo imparato una cosa fondamentale, che queste discariche di miniera, che sono immense, sono tantissime in giro per il mondo, si possono assicurare. Se un'attività pericolosa, una discarica, ma altre attività pericolose sono sottoposte a controllo da parte di una compagnia assicurativa, il controllo è molto molto più efficace, perché risponde ad un interesse di natura economica. Il controllo che avrebbe dovuto operare il distretto minerario sulla gestione di quella discarica era un controllo assolutamente inefficace, così si è dimostrato, mentre se noi siamo convinti e se fosse intervenuta una compagnia d'assicurazione, già 10 anni prima avrebbero capito che lì si stava generando un disastro e che sarebbe costato molto, moltissimo. Non parlo delle vite umane. Ma infatti anche questa è la cosa forse più triste, che dobbiamo, per poter parlare di prevenzione, di emergenza, eccetera, dobbiamo parlarne in termini economici. Ci sono stati 268 vittime e noi, per pensare di poter evitare quanto successo, dobbiamo necessariamente discutere di assicurazioni, di controlli, di enti che devono fare il proprio mestiere fondamentalmente, e di industrie che devono, non devono necessariamente operare per il profitto più becero. Ma è quello di cui noi siamo convinti. Noi come fondazione abbiamo fatto una precisissima scelta di comunicazione, volevamo portare il nostro interlocutore a ragionare. Non è tanto l'emozione, il lutto, il dolore, la rabbia, perché un'ingiustizia di questo genere è difficile da accettare, ma è il ragionamento. Pensate un po', ma davvero era interesse dell'azienda risparmiare poche lire sulla gestione di questa discarica e dover poi pagare decine, se non centinaia di milioni, parlo di euro? E qui noi vorremmo veramente far riflettere e per far capire che conviene, estremamente più conveniente, prevenire piuttosto che dover risarcire. Ed è quello che noi anche nel nostro piccolo abbiamo spesso ripetuto per quanto riguarda soprattutto il dissesto idrogeologico. Noi come nazione siamo sottoposti a un pericolo dissesti, rischi vari enormi, sia per terremoti che per esondazioni, alluvioni, eccetera. Basterebbe, per mettere in sicurezza una buona parte del territorio nazionale, una quantità di denaro estremamente inferiore rispetto a quella che poi viene usata nel post evento. Quindi è quello, perché lavorare sempre in emergenza quando si potrebbe prevenire spendendo molto meno e risparmiando molto? Certo, ma ne sono profondamente convinto, ma io vorrei anche farvi riflettere sull'aspetto minerario. Oggi in Italia l'attività mineraria è ormai residuale, ma ci sono le discariche, ci sono, le ha contate l'ISPRA, o meglio le sta contando l'ISPRA, ci sono più di 600 discariche abbandonate sul nostro territorio, la gran parte è in Sardegna. Si calcolano circa 100 milioni di metri cubi di materiale depositato in discarica di miniere che oramai sono chiuse da anni, che sono abbandonate, che sono lì senza controllo alcuno. Speriamo che Dio ce la mandi buona. E speriamo di sì. E con questo ti ringraziamo. Purtroppo il tempo a disposizione non è tantissimo, l'argomento meriterebbe sicuramente di più. Grazie per la chiarezza. Posso solo aggiungere una cosa? Certo. Brevissimamente, dopo Stava noi contiamo 66 incidenti rilevanti in discariche di miniere in tutto il mondo. Sembra che le lezioni in questo paese, o anche in ambito minerario in tutto il mondo, non servano, non vengano prese in considerazione. E non bastano mai, purtroppo. Sì, abbiamo effettivamente memoria molto corta su questo tipo di situazioni, e lo riscontriamo in moltissimi di questi casi. Grazie mille. Allora, se hai parlato di memoria, scusami se ma ti devo rubare un altro minuto. vorrei che si sappia che il nostro Parlamento nel 2011 ha approvato all'unanimità una legge che istituisce la giornata nazionale in memoria dei disastri industriali e ambientali causati dall'uomo. E questa legge, che è del 2011, non si celebra. Questa giornata, che è del 2011, no, è non vero. Si celebra. E credetemi, c'è bisogno di memoria, di tanta memoria, per evitare che queste situazioni si ripetano. Assolutamente, ti ringraziamo moltissimo per il tuo intervento chiarissimo e ci risentiamo magari più in là. Se avete piacere, io sono sempre a vostra disposizione. Grazie. Buona serata a voi. Grazie mille, davvero. E allora facciamo un ultimo brevissimo intermezzo musicale, veramente il tempo di chiamare l'ultimo ospite di questa sera. I'm a space invader. I'll be a rock and roll and bitch for you. Keep your mouth shut. Just smoke it like a big monkey bird. And I'm busting up my brains for the world. Allora ritorniamo in voce per l'ultimo intervento dall'esterno e abbiamo con noi Alberto Grossi. Ciao Alberto, ci senti? Sì, buonasera a tutti quanti. Eccoci. Alberto è referente del presidio Apuano, gruppo intervento giuridico. E diciamo hai seguito la prima parte della trasmissione, quindi sai di cosa stiamo parlando, e quindi arriviamo a parlare di estrazione e quindi come non parlare di estrazione nelle Alpi Apuane. Quindi se ci puoi fare un po' un quadro della situazione nelle Apuane, anche se effettivamente in questa trasmissione abbiamo già trattato varie volte, soprattutto per quanto riguarda l'impatto in situazioni di emergenza come alluvioni. Abbiamo parlato dell'alluvione di Carrara di 2 anni fa. E qual è l'impatto di questa attività estrattiva? Bene, c'è una frase che da noi è pane quotidiano da noi, da parte ambientalista, e questa frase dice: il marmo è una ricchezza che ci impoverisce. Quindi in una semplice battuta, perfetto, si può racchiudere il tema nelle sue criticità, perché noi di fatto assistiamo ad un neocolonialismo che di fatto poi questo neocolonialismo lo poteva essere definito come tale soltanto dal punto di vista ideale, filosofico. In realtà con l'acquisizione nel 2014 da parte di una grande società straniera del 50% di una società di Carrara, di fatto abbiamo visto che c'è questo neocolonialismo di ritorno, perché qui in questo caso siamo noi i colonizzati. È una vicenda che meriterebbe di essere approfondita, non credo che avremo il tempo di farlo, perché tutto quanto riguarda il capitolo marmo a Carrara è di estrema complessità. Basti però ricordare che le montagne sono un bene comune, il comune di Carrara in questa transazione, che si dice abbia comportato un esborso di 45 milioni di euro da parte dell'acquirente di un pacchetto azionario del 50% di un'azienda, che in sostanza non ha nulla, o meglio, quello che detiene l'azienda è gran parte dei bacini marmiferi che sono però in concessione. Quindi il comune di Carrara, che è il proprietario dei bacini marmiferi, da questa operazione non ha ricavato nemmeno un centesimo. Se la vogliamo mettere sul piano specificamente economico, ecco che allora noi vediamo, davvero tocchiamo con mano quello che ho espresso prima con la battuta: è una ricchezza che ci impoverisce, perché di fatto il territorio, che dall'esterno può essere considerato come un territorio baciato da Dio, perché abbiamo il mare, abbiamo le montagne, abbiamo un paesaggio incantevole, attraente, stupefacente, abbiamo la storia, perché da noi ha lavorato Michelangelo, quindi abbiamo anche un grande